un genitore e un figlio. Vedo due persone che hanno attraversato una lunghissima battaglia. Vedo la lotta di entrambi per l'indipendenza e quella per ritrovare un contatto. Il desiderio del padre di insegnare qualcosa e quello del figlio di impararla, ma anche di staccarsi, anche di andarsene, di liberarsi e detestarti. Penso che non ci sia destino come quello d'esser genitori. Tutto quel che fai e tutto quel che dai, fai tutto quel che puoi perché puoi. Se ne va lontano e fa qualcosa perché vuole veramente farlo e non per compiacerti senza neanche pensarti, è libero e hai vinto tu. Figli che conoscono il mondo da Pechino a Macondo, ma non chiamano mai. Chissà cosa nascondono, che cosa comprendono della realtà. Forse sono io che confondo